vita precaria. Bollaci, bestre lovers. Bollaci, bestre lovers. E lo sai. Lasciamo stare, scompari un po', capire i miei misteri. Tu sei Giuda, mi ricordo ieri. Più 30 denari, tu mi vendi sta l'asta. La parola tua, quanto costa? Sta vita è una giostra e tu girami lontano. Da bello come un quadro con un chiodo alla parete. Chiamo prete pa' messa. Una parola è una promessa. Una parola è una promessa. Giuda è in agguato, ma le mie spalle hanno gli occhi. Uno guarda le volanti, l'altro infami pidocchi. I miei santi mi proteggono nell'ombra del vicolo. Ho riflessi per gli allarmi d'ogni forma di pericolo. Riconosco i cazzoni a un miglio di distanza. Quando fanno gli spacchiusi, ma son privi di sostanza. Il rispetto non lo impari sopra i libri di scuola. Sono regole non scritte, a volte basta una parola. La mia generazione ha una vita precaria. Se piangi non mangi, ti mangia la strada. La mia generazione ha bisogno di grana, vivere o morire sopra il filo della lama. La mia generazione ha una vita precaria. Se piangi non mangi, ti mangia la strada. La mia generazione ha bisogno di grana, vivere o morire sopra il filo della lama. Levati dal cazzo perché qui vale tutto. E se fotti coi colossi prendi calci nel culo. La mia legge arrangiarmi o non porto il pane a casa. Qui la legge protegge i padroni di casa. E se tagliano la luce vedo ancora più buio. Le divise per lo sfratto vogliono che rubo. Digli alla mia fra che c'è lavoro interinale. I padroni s'arricchiscono, lo Stato è criminale. I politici affaristi non li ho visti nel quartiere. Sono seduti a fare leggi per proteggersi il sedere. Ma se gli presto solo un poco dei cazzi miei. Ma se gli presto solo un poco dei problemi miei. Qui non duri un giorno se non ti fai la pelle dura. La paura del domani ci fa stringere la cintura. Qui Cristo si è fermato e ci ha lasciato i demoni. Che con polveri bianche ci rendono più deboli. La mia generazione ha una vita precaria. Se piangi non mangi, ti mangia la strada. La mia generazione ha bisogno di grana. Vivere o morire sopra il filo della lama. La mia generazione ha una vita precaria. Se piangi non mangi, ti mangia la strada. La mia generazione ha bisogno di grana. Vivere o morire sopra il filo della lama. Ma ti chiedo scusa se ho deluso i tuoi progetti. Mi volevi sistemato, sono qui tra vetri rotti. Mentre fumo lotti con i più corrotti. Sono patti criminali e se mi vedi chiudi gli occhi. È il mondo che ha deluso e sono qui col muso chiuso. Illuso e disilluso, ma domani è sempre peggio. La prospettiva è più distorta, ci ha lasciati in un parcheggio. Non basta l'ingegno, non basta l'impegno. Questa è la mala strada e la strada lascia il segno. Sulla nostra pelle cicatrici di battaglie. La notte è il nostro mondo, siamo giovani canaglie. In un cerchio di infami, politici corrotti. Domani non hai regole fino a quando lo scopi. Vivo Easy Rider come questo pezzo. Mostri e lo sai. La mia generazione ha una vita precaria. Se piangi non mangi, ti mangia la strada. La mia generazione ha bisogno di grana. Vivere o morire sopra il filo della lama. La mia generazione ha una vita precaria. Se piangi non mangi, ti mangia la strada. La mia generazione ha bisogno di grana. Vivere o morire sopra il filo della lama.